Bene, ora torneremo fra un po' su queste tematiche, intanto ascoltiamo l'intervento di Russo Spena, che lo mandiamo su. Luca, Michele, Claudio, Francesco, l'italiano, insomma ci incontriamo più spesso appunto quando andiamo a contrastare i CPT o a smontare i CPT, quando andiamo a difendere le case occupate, piuttosto nelle discussioni politiche. Beh, io credo che questo sia un dato da cui dobbiamo partire. Oggi sul piano della difesa dei diritti, delle garanzie, delle libertà, dello Stato di diritto in generale, noi siamo di fronte ad una bancarotta, la chiamo così per brevità, ma anche perché è un giudizio mio molto preciso, di fronte ad una bancarotta delle sinistre. Siamo di fronte ad una bancarotta, Luca, delle sinistre, al giustizialismo più bieco, al proibizionismo più bieco, fino all'ultimo, sulle ultime leggi speciali, giustamente dicevi, il pacchetto cosiddetto Pisano, che non è un pacchetto appunto contro il terrorismo, è un pacchetto contro i migranti, è chiarissimo, che è un pacchetto che è stato votato da alcune forze importanti dell'Unione, dalla Margherita, dal DS, salvo piccolissimi esempi di obiezione in termini di astensione o altro. Vorrei dire, qui non c'è Paolo, ma mi si permetta un passaggio polemico, una tantum che non faccio mai nel mio spirito unitario, ma insomma mi si permetta di dire che quando si parla di lista arcobaleno, beh, su questi temi mi pare che all'interno di lista arcobaleno vi siano fra le forze politiche della sinistra cosiddetta radicale, che ora si autodefinisce da qualche settimana radicale, che in termini, devo dire, di giustizialismo, prima di Genova non ne parliamo, dopo Genova non ne parliamo, e nella condanna perfino del movimento a Genova, come dire, si è esaltato parecchio. Qualcuno, il segretario di quel partito, è stato anche ministro della giustizia, forse dovremmo andare a vedere cosa è successo quando nelle carceri italiane, quando era ministro della giustizia, forse nelle carceri italiane, con la contestazione di alcuni di noi qui presenti e di qualche altro, vi è stato perfino introdotto, come dire, una specie di servizio segreto. Ecco, per esigenze radiofoniche, diciamo, siamo costretti a tagliare un po' gli interventi, perché comunque sono lunghi, ore di dibattito sono un po' pesanti da sostenere, quindi ci proponiamo di intervistare direttamente coloro i quali intervengono, in modo che possano darci un po' un riassunto del loro intervento e della loro posizione. Io volevo fare una riflessione dall'intervento di Casarini. Penso che siamo entrati proprio nel vivo delle dinamiche spesso controverse e complesse, no, tra movimento e i partiti. Giustamente Casarini diceva sui temi nessuna difficoltà, no, di incontro. È chiaro che i temi che ci stanno a cuore sono quelli e sono chiari. Il discorso è proprio sulle modalità con cui si intende poi trovare delle risposte e delle soluzioni concrete. Quindi penso che dall'intervento di Casarini possiamo dire che gli altri interventi tenteranno di quantomeno di dare una risposta a quelli che sono dei nodi critici tuttora vivi e aperti. Adesso sta parlando l'onorevole Russo Spena. Volevo ricordare che comunque l'onorevole Russo Spena, insieme soprattutto ai compagni e alle compagne di Cosenza, è stato al fianco nella costruzione di battaglie concrete sul territorio per quanto riguarda la chiusura del centro di permanenza temporanea di Malgrado Tutto, e con la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro proprio rispetto alla chiusura della Malgrado Tutto, e quindi poi, se avremo la possibilità di parlare direttamente con lui, ritorneremo su questo tema. Quindi, al di là di quelli che erano poi i limiti che evidenziava Casarini, diciamo che da parte di un parlamentare è stato fatto tutto il possibile, rispettiamo la sua analisi rispetto ai limiti di una democrazia malata, però riconosciamo anche il fatto che poi in alcuni percorsi delle nostre battaglie, quantomeno nello specifico l'onorevole Russo Spena, è stato vicino ai compagni e alle compagne nella costruzione di percorsi che andavano nella chiusura e nel superamento definitivo di lager come quelli di Lamezia Terme, su cui poi, ripeto, li approfondiremo più in là. Ecco, guarda, io approfitterei invece proprio di questo spazio che ormai ci siamo ritagliati proprio per approfondire la questione dei CPT, se a te va, in quanto tutti sanno della presenza di questi centri di permanenza temporanea, tutti sanno o lo hanno appena appreso di chi si sta adoperando per fine a questa situazione vergognosa. Io Ecco, vorrei che tu insomma mi illustrassi in qualche modo, se possibile, che cos'è un GPT, che, e quali sono le dinamiche che portano alla creazione di una sorta di lager, che cosa eventualmente si può produrre da portare come istanza all'interno del Parlamento, cosa si può fare al di là delle pratiche di disobbedienza civile cui accennava prima Casarini. Domande da un milione di dollari, sì. Sicuramente. Comunque ricordavamo anche prima negli interventi che molto scioltamente qualche partecipante a questa famosa convention glissava un po', no, su quelli che sono stati gli sbagli della sinistra. Noi vogliamo ricordare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ma io ritengo di sì, di ribadire che comunque l'istituzione dei centri di permanenza temporanea, che è un acronimo assurdo, no, è un'invenzione linguistica che nasconde semplicemente una pratica di reclusione, di controllo e di esclusione dei migranti, è stata pensata, ideata e creata dall'ex centrosinistra, anche grazie al mio voto personalmente, quindi da lì ho deciso che davvero, cioè, è stata l'ultima volta, e non voterò neanche questa volta, ne approfitto di questi microfoni perché non mi fido, perché grazie anche al mio voto loro hanno creato quelli che sono dei veri e propri lager moderni, e noi come compagni e compagne di Cosenza abbiamo focalizzato l'attenzione su quelli che sono i centri presenti nella nostra regione. Ricordiamo che ce ne sono due, uno a Lamezia Terme, gestito dalla cooperativa Malgrado Tutto, da Raffaello Conte, è bene fare nomi e cognomi di quelli che sono dei personaggi molto loschi, e poi il Sant'Anna di Crotone. Io, cioè, che dire, bisognerebbe, appunto, come dicevamo anche ai nostri ascoltatori, creare proprio dei momenti di approfondimento su temi fondanti come questo. E io colgo con molta preoccupazione quelle che erano le giuste osservazioni di Luca Casarini nel suo intervento. All'indomani dell'incontro con tutti i governatori, cioè quasi il 90% no, dei governatori delle regioni italiane che convenivano sulla necessità politica, sull'urgenza umana di superare il CPT, viene varato un pacchetto sicurezza a firma di Pisano, che è quanto di più vergognoso possibile, che è una sorta di Patriot Act italiano, e che risente diciamo del clima internazionale sulla lotta e sulla repressione, sulla pericolosità del terrorismo e quant'altro. Ora, mi rendo conto che la situazione è molto complessa e bisognerebbe poi parlare da questi microfoni per anni. E quello che volevo magari discutere oggi era, riallacciandomi sia a quello che diceva Casarini che a quello che diceva il parlamentare Russo Spena, dove si può incontrare, cioè quale può essere il punto di incontro dei movimenti e delle istituzioni sul superamento. Le nostre battaglie da sole non bastano, perché è vero, possiamo anche rompere un muro, tagliare una rete mettendo in gioco le nostre libertà, i nostri privilegi di occidentali, no? Detto questo, bisogna escogitare, a mio avviso, delle soluzioni alternative e che ci sono sul territorio, e quindi costringere i legislatori a preventivare delle forme di assistenza altre, di accoglienza che siano dignitose e rispettose della presenza umana. Sul territorio esistono esperimenti in questo senso, uno tra tanti, quello locale, la Casa dei Migranti, gestita dall'associazione La Casba, appunto su quello poi, ripeto, possiamo fare tutti gli approfondimenti del caso. Non è vero che non ci sono delle alternative, e quindi io dico, ribadisco a ragione l'intervento di Casarini, sui temi ci siamo, poi su quello che vogliamo fare, qui oggi continuiamo a non sentire un cazzo, cioè proprio per essere in sintonia con una modalità di linguaggio giovanile del leader dei disobbedienti. Noi stiamo proponendo anche delle alternative. Su questo anche oggi devo dire che insomma si riscontrano pochi strumenti stringenti e molte parole su quei temi e sulla condanna di certe modalità. Siamo tutti d'accordo, poi sulla costruzione di alternative noi siamo pronti al confronto. Avremo risposta, questa è la domanda principale. Poi, fra l'altro, la questione dei migranti, del precariato dei migranti che non si esaurisce nella questione dei CPT. Quella dei CPT forse è quella più controversa, quella di più difficile soluzione apparentemente, anche se tu poc'anzi ricordavi che le alternative esistono, si tratta solo di metterle in pratica. Tra l'altro, scusa che ti interrompo, volevo brevemente ricordare che nei CPT si è fatta una media, no, tra i vari centri di permanenza temporanea presenti in Italia. Il governo attualmente spende mediamente tra i 70 e i 90 euro al giorno pro die e pro capite, mentre per quanto riguarda sistemi alternativi di accoglienza come l'ex programma nazionale asilo e quindi progetti in cui non c'è la logica del centro ma quella di una famiglia allargata, di una comunità in cui i migranti abbiano dignità e soggettività, ci aggiriamo intorno ai 17 euro. Io non mi voglio limitare a delle venali questioni economiche, però questo dovrebbe dare la misura, dovrebbe dare la misura di quello che è poi, voglio dire, insomma, l'importanza che i politici danno a delle forme di accoglienza piuttosto che altre, perché oggi, e lo dicono tutti, non a caso lo dice anche il Presidente della Confindustria, che c'è bisogno di, cioè, è paradossale, voglio dire, no, che il Presidente della Confindustria dica delle cose che dice il Movimento, chiaramente con delle logiche diverse, cioè che è quella di aprire e di liberalizzare i flussi di ingresso. Perché? Perché l'economia sommersa è quella che tiene oggi, il nostro paese, per cui va bene che vengano, ma senza soggetti, senza dignità e senza diritti. Quindi su questo vorremmo delle risposte chiare, ma in termini proprio di progettualità da costruire insieme. Sì, quella dei CPT ovviamente è una questione che riguarda coloro i quali hanno proibito l'accesso alla vita sociale, alla vita economica italiana, malgrado, diciamo, le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e questo comunque è un problema a monte. Un altro problema secondo me è quello che riguarda coloro i quali invece sono già inseriti all'interno del nostro sistema, permettimi di chiamarlo produttivo, anche se è una parola brutta, però spesso nelle dinamiche politiche quella economica è quella prevalente, la definizione economica. Ad esempio, poco tempo fa proprio ha fatto, diciamo, discutere le disposizioni date da alcuni sindaci di inserire gli extracomunitari, per così dire, all'interno delle liste civiche per poter dare il diritto al voto. Una situazione che stranamente, a mio avviso, non si capisce per quale motivo, ha creato scalpore. Mi sembra che vi sia stata addirittura dichiarazione di incostituzionalità o comunque sia intervenuto la magistratura, e dunque a me sembra, lo so che dico una cosa ovviamente scontata nell'ambito in cui mi sto esprimendo, però sembra assurdo che una persona che contribuisca fattivamente non solo alla crescita culturale ma anche economica del nostro paese, quindi una persona alla quale noi dobbiamo tanto, non possa poi avere diritto ad essere rappresentato politicamente. Questa è una questione che, ripeto, riguarda chi è già entrato in Italia, chi, certo, anche se ha trovato le porte sbarrate, in qualche modo è riuscito comunque ad inserirsi. No, io volevo cogliere l'occasione, visto che posto la questione, e dire che al di là delle propagande, voglio dire, anche dei deliri di chi, come ricordo Fini, che aveva fatto scalpore con la sua istanza di riconoscimento del diritto al voto, su cui poi non se ne è fatto assolutamente niente, di dire che grazie anche al lavoro dell'associazionismo locale, ed è grazie a questo che oggi si è varata una legge, cioè che comunque esiste, è stato riconosciuto la possibilità di eleggere un consiglio provinciale dei migranti della provincia di Cosenza. Questo sicuramente, vuol dire, degno di nota, vorremmo ricordarlo da questi microfoni, perché quando ci riguarda, guarda, in questo senso è possibile creare un percorso comune tra movimenti e istituzioni, perché noi non abbiamo comunque il potere poi, no, di modificare quelle che sono le dinamiche della politica cosiddetta istituzionale, però grazie alla nostra presenza sul territorio, grazie alla presenza dell'associazionismo, stiamo organizzando nella provincia di Cosenza delle elezioni, quindi elettorato attivo e passivo, per i migranti regolarmente soggiornanti. Chiaramente da questo porteremo avanti anche la battaglia per l'emersione dalla clandestinità, che è una delle altre piaghe su cui poi sempre dovremmo creare un'altra, come dire, un altro approfondimento a parte. Un'altra parentesi, sì, poi purtroppo le piaghe che riguardano un po' la situazione degli extracomunitari sono tante, non sono solo a livello politico, ma anche a livello, diciamo, culturale. Secondo me la questione che riguarda il terrorismo di matrice islamica, per così dire, la chiusura di scuole islamiche, si inserisce in modo trasversale. Però comunque adesso l'onorevole Lusso Spena sta facendo proprio un passaggio sui CPT, chiederei a Pierluigi di mandare in diretta. Perfetto, dopo. Lo dico non solo da giurista, dico, ma come dire, da vecchio parlamentare e da compagno che ha partecipato ad alcuni movimenti nella sua vita. Cioè noi dobbiamo far comprendere che non, anche quando lottiamo per i migranti contro il CPT, per la cittadinanza transnazionale, non stiamo facendo un'opera di solidarietà o solo di assistenza. Stiamo costruendo un immaginario di una società diversa, alternativa, di uno Stato di diritto diverso, di una formazione sociale diversa. Stiamo parlando di noi stessi. Questo è il punto fondamentale. Se noi riuscissimo a portare a livello di massa questo messaggio, se noi riuscissimo in qualche modo a comunicare questa internità di tutte le lotte l'una all'altra, in questa interconnessione progettuale, piaccia o no, io credo all'espansione piena dei movimenti, ma credo che il progetto, farà perché sono un vecchio gramsciano, il progetto è indispensabile da questo punto di vista, perché altrimenti le cose non si tengono. Ed sono i punti di dissenso teorici veri, in qualche modo, che abbiamo. Allora, e finisco, io credo che un punto fermo del programma alternativo, che noi ci impegniamo qui, anche come aspetto certamente non il principale dal punto di vista della partecipazione, ma come aspetto che non è secondario rispetto al salario, alla pensione, al salario sociale, come aspetto che è dentro una caratterizzazione di una democrazia organizzata e conflittuale, che io ritengo sia una grande battaglia che le sinistre debbano finalmente ricominciare a dare dopo la bancarotta degli ultimi 20 anni, e partiamo dal minimo. Sull'amnistia ha già detto grazie. Partiamo dalle minime cose che possiamo proporre, anche, come dire, come riduzione del danno, ma la riduzione del danno quando si tratta di anni di galera per i movimenti, per le compagne e compagni, sono importanti. Questo si può fare subito, ovviamente io credo si potrà fare, adesso non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma comunque si potrà fare nella prossima legislatura, e qui vanno presi impegni, su cui appunto in maniera zapatista, camminare e domandando insieme, dobbiamo, io credo su questo raggiungere un'unità che non è l'unità del volemos e bene, non è un'unità di facciata, io credo che noi possiamo arrivare ad alcuni punti fondamentali, drastica riduzione delle ipotesi di incriminazione, è fondamentale, li dico proprio in ordine giuridico, anche in base al codice, riduzione delle pene previste quando proprio le pene siano indispensabili, secondo il codice ovviamente, visto che non riusciamo ancora a fare la rivoluzione nei prossimi mesi, e quando le pene vengono comminate, misure... Sì, riprendiamo sempre in diretta, lo ricordiamo, dal Cinema Italia su www.radioactive.org, nonché sulle frequenze di Radio G Roma 105.7, questo nell'etere cittadino di Cosenza e dintorni. Sì, dunque, abbiamo appena ascoltato Pietro Folena, ha ripreso la questione del CPT, scusate, Lusso Spena, che ha ripreso la questione del CPT di cui appunto stavamo discettando prima. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, un'ulteriore riflessione. No, più che ulteriori riflessioni, dicevo, adesso vediamo dopo l'intervento di Lusso Spena se sarà possibile magari portarlo qui in regia per fare altre domande, però, cioè, che dire, sulla questione dei CPT abbiamo già detto abbastanza, bisognerebbe poi vedere a livello proprio programmatico e concreto che cosa questi politici ci propinano. Sì, possono offrire. Noi fra l'altro ricordiamo che questo è solo uno degli argomenti che ci siamo proposti di trattare, quindi continueremo nel proseguio approfondendo anche altri argomenti, quale l'amnistia, legge del 70, Pax e quant'altro, quindi io do la parola a Tonio e poi riprenderemo in presa diretta dalla sala. Sì, sì, continueremo e continueremo anche magari a commentare quelli che sono gli interventi, magari sottolineando anche le cose che mancano. Tutto questo fra un po', ora diamo spazio alla musica. Solo voi con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel,